in primo piano. Questo lunedì 21 marzo, beh, davvero sono unanimi le aperture dei quotidiani dedicati proprio alla situazione in Libia, a parte il Sole 24 Ore, che è l'edizione, come sapete, del lunedì, e che apre con il pagherò degli enti locali, le imprese incassano 7 miliardi in meno dalle amministrazioni. Ma poi, come dicevo, ecco le aperture, il Corriere, gli aerei italiani contro Gheddafi, bombe vicino al bunker. La Repubblica, caccia italiani sulla Libia. Per La Stampa, Libia, caccia italiani in azione. Per Il Giornale, l'Italia si blinda contro Gheddafi. Per Il Messaggero, Libia, caccia italiani in azione, titoli anche simili, mentre l'Unità mette Odissea, questo titolo. Ci sono delle foto di La Russa, di Gheddafi, di alcuni migranti su una barca sotto questo titolo. Allora, come detto, l'ampia pagina dedicata alla Libia la vedremo più avanti. E da cosa voglio partire? Da alcune segnalazioni anche curiose. La prima la troviamo sul Corriere della Sera, pagina 23. Ha perseguitato il parroco e il giudice dice vada a messa altrove. Accusata di stalking, una donna che ha presentato 35 denunce, una vicenda che viene da Padova, era diventata il terrore di un'intera parrocchia, 4.000 fedeli, un parroco, Don Francesco Tondello, da anni in balia di quella donna, all'apparenza gentile, colta, facoltosa, ma capace di trasformarsi in un'arma da guerra. Eravamo il suo bersaglio, si scagliava contro tutto ciò che riguardava l'attività della mia chiesa, i bambini che giocavano a pallone, i volontari, le feste. Eravamo la sua ossessione e lei la nostra croce. Così racconta il Don, che però è stato salvato, racconta Francesco Alberti in questo articolo, da una sentenza del tribunale che ha condannato questa donna per stalking a stare lontano dalla parrocchia, un incubo durato 7 anni. Per questa donna, 46 anni, laureata, mai sposata, una figlia di 20 che vive altrove, una donna, dice il parroco, dalla vita sociale intensa, commercialista, consulente per aziende, una personalità complessa, a volte mi ha anche offerto il caffè, dice ora il parroco, ma poi scoppiava in proteste per i presunti schiamazzi dei ragazzi, perché giocavano a pallone, mi ha anche accusato di averle inviato proiettili in busta, insomma, una denuncia poi per stalking. E alla fine il giudice ha detto stia lontana dalla parrocchia. Ha perseguitato il parroco, il giudice vada a messa altrove. Oddio, non so se andava mai a messa. Però insomma non può frequentare, deve stare lontano dalla parrocchia. La seconda notizia viene da Repubblica, a pagina 25, e sta già mettendo in moto una mobilitazione da parte degli animalisti. In Trentino, catturate quell'orso ribelle, e in Trentino scoppia la polemica. Ogni tanto c'è questa polemica, non è la prima volta, anche qualche anno fa. Il governatore dell'AI contro il governo e gli ambientalisti, troppi rischi, ora basta. Tutta colpa, racconta Andrea Selva, della pecora del parroco, un lunedì di parroci evidentemente. Se l'orsa trentina DJ3, così identificata, non si fosse avventurata di notte nel centro di Roncone per sbranare la pecora di Don Igor, ora potrebbe uscire dal letargo a cuor leggero. Invece sarà catturata e finirà in un recinto per orsi problematici a pochi chilometri da Trento. Così ha deciso il governatore di Trento, il presidente della provincia di Trento, Lorenzo Dell'Ai, nonostante l'altro là del ministero, nonostante le proteste degli animalisti. D'altronde, troppe incursioni di questo orso nei paesi delle vallate trentine, troppi alveari saccheggiati, si sa, agli orsi piace il miele, troppi animali sbranati, agli orsi piacciono anche le pecore, troppe proteste, troppa paura. E sta di fatto che il governatore la mette giù così: mi son preso la responsabilità di decidere nonostante il parere giunto da Roma, perché siamo noi i gestori di questo progetto. Le polemiche ci saranno anche nei prossimi giorni, e invece il governatore del Trentino ha già firmato l'ordine di cattura nei confronti dell'orso ribelle che minaccia le pecore e gli alveari del Trentino. Il tema maggiormente sviluppato sui giornali ovviamente è quello dell'intervento militare in Libia. Ci sono davvero tantissime pagine, tantissimi commenti, vediamo di orientarci con una selezione di quello che trovate. Beh, intanto Gheddafi dalla Libia ha parlato, ormai appare da qualche giorno solo in voce, Sarà una guerra lunga, cadrete come Mussolini, così racconta il Corriere a pagina 5 con l'inviato Fabrizio Caccia da Tripoli. C'è un Gheddafi che ha detto contro l'Italia: ci hai tradito, sei una traditrice come la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, voi cadrete come sono caduti Hitler e Mussolini, abbiamo già sconfitto gli italiani, ora saranno i vostri governi, i vostri regimi a cadere. C'è ovviamente mistero su dove si trovi Gheddafi, manda solo messaggi auto, qualcuno dice che sia sui monti di Gariana, sud della capitale, in un altro bunker molto più sicuro di quello Baba Lazizia, dove è la sua residenza, sebbene fortificata e che fu già colpita dagli americani durante il bombardamento del 1986. Anche Repubblica, con l'inviato Vincenzo Nigro, racconta proprio i misteri di Gheddafi, il bunker, la scorta, il suo popolo. Così Gheddafi gioca l'ultima partita, secondo alcuni racconti. La domanda sempre di fondo è questa: è ancora lì dentro, è ancora lì a Baba Lazizia? Possibile, dice Vincenzo Nigro. L'altra notte però qualcuno ha riferito di aver visto un lungo convoglio di jeep e camion militari con rifornimenti, carburante, vettovaglie spostarsi verso sud, verso appunto questi monti a cui faceva riferimento il Corriere della Sera, i monti di Garian. Sta di fatto che per ora manda minacce audio. Il fronte dell'intervento militare, come detto, la maggior parte dei titoli di apertura è sugli aerei italiani contro Gheddafi. Ieri gli aerei italiani, dopo 100 anni, non gli aerei 100 anni fa, ma comunque truppe italiane, militari italiani, hanno sorvolato i cieli della Libia, hanno avuto un intervento concreto in Libia. Anche questo dal punto di vista simbolico è molto molto importante. E allora ci sono le reazioni. Non siamo entrati in guerra volentieri, così è il titolo dell'intervista che il giornale fa al ministro della difesa Ignazio La Russa. Sono sempre refrattario a usare il termine guerra, inizia così l'intervista alla Russa. Questa è una missione che ci ha assegnato l'ONU, certo comporta l'uso della forza. Siamo lì con lo scopo di difendere la popolazione libica e la missione durerà il tempo necessario a proteggerla. E però, chiede Paola Setti, la Germania si è astenuta. Noi non avremmo potuto, risponde la Russa, proprio perché siamo noi a mettere a disposizione le basi. La nostra non sarebbe stata un'astensione, ma un voto contrario, perché avremmo reso impossibile la risoluzione. E poi la Russa dice, per quello che ne sappiamo, i raid non si sono concentrati sulle città, sono stati finalizzati alla creazione della no-fly zone, nel più totale rispetto della risoluzione. Sul tema temete ritorsioni, non ci risulta che Gheddafi abbia armi potenti. Magari attentati in casa, chiede il giornale. Proprio il fatto di far parte della coalizione ci mette al riparo da rischi. Gheddafi sa che ci sarebbero conseguenze per lui perché siamo parte della coalizione. Tra l'altro vi ricordo, è il tema del nostro sondaggio. Ne parleremo alle 8.30. Temete ritorsioni per l'Italia per questo intervento militare in Libia? Interessante anche l'intervista al capo di Stato Maggiore della Difesa, lo è da 2 mesi, Biagio Abrate, sul Corriere della Sera. 61 anni, alpino, parla a Marconese. Ecco, sull'importanza dell'intervento degli aerei militari, perché qualcuno dice, abbiamo chiesto, l'Italia è sempre un po' così, no? Fa un passo in avanti e un passo indietro in queste situazioni, e qualcuno allora ha sparso la voce che metteremo a disposizione gli aerei italiani ma non serviranno mai a bombardare, come se questo ci preservasse nell'essere, diciamo così, con un piede dentro e un piede fuori. Invece sentite il capo di Stato Maggiore di Difesa Biagio Abrate sull'uso degli aerei per neutralizzare le minacce che possono venire dal suolo libico. Abbiamo messo a disposizione 8 velivoli. Alla domanda, sono autorizzati a lanciare attacchi contro la Libia? Certo, questa è la risposta del capo di Stato Maggiore della Difesa. Il loro compito è colpire radar, sistemi antiaerei, insomma distruggere le postazioni in grado di arrecare danni ai jet alleati e rendere lo spazio aereo sicuro. Si tratta di 4 Tornado e 4 F-16 a disposizione. Così il capo di Stato Maggiore della Difesa Biagio Abrate parla al Corriere della Sera. E poi c'è tutta la questione delle ritorsioni. Beh, intanto c'è un mistero su questo, su un rimorchiatore italiano sequestrato da un paio di giorni a Tripoli. ci sono dei libici armati a bordo della nave, ci sono 8 connazionali italiani che fanno parte dell'equipaggio. Tra l'altro io ricordo che alle 8:30 avremo ospite il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto. Cercheremo di capire, insomma, anche se questa, per come è per qualcuno, è una possibile già prima ritorsione nei confronti dell'Italia. E poi ci sono tutte le polemiche politiche in Italia, perché sapete che la Lega, se avete seguito i giornali nel weekend, la Lega è il fronte politico, è la, diciamo, il partito politico di governo più critico nei confronti di questo intervento. Intanto Berlusconi non ha parlato ufficialmente riguardo a questi malumori all'interno della coalizione di governo, però ci sono tanti retroscene, bisogna affidarsi a quelli. Intanto Marco Galluzzo sul Corriere della Sera attribuisce questa a Berlusconi: parliamoci chiaro, i raid francesi e i cruise americani sono anche un colpo mortale alla nostra diplomazia commerciale, a un pezzo della politica estera del Cavaliere. È inutile che ci giriamo intorno, ci sono i civili da difendere, c'è la risoluzione ONU, ma c'è anche tanto altro, in primo luogo petrolio e gas e molti contratti vantaggiosi da stipulare in futuro. Così nello staff e tra gli amici del Cavaliere parlano, racconta Marco Galluzzo, cioè una situazione un po' incerta. Basta prendere anche Repubblica, Francesco Bei: se potesse il Cavaliere le azioni militari le fermerebbe subito. Umberto Bossi ha ragione, non sarebbe dovuto andare così, ma la Francia ci ha spiazzato, ha deciso senza consultarci e noi non potevamo restare fuori da una guerra che si svolge a mezz'ora di volo dalla Sicilia. Tra l'altro c'è anche questa frase attribuita a Umberto Bossi, dato per furibondo con Frattini e La Russa: quei due, ha detto Bossi, avrebbe detto ai suoi, si sono messi a 90 gradi prima del vertice di Parigi. Era evidente che le nostre basi sarebbero state indispensabili, quindi potevamo almeno trattare sulle condizioni, invece quei due hanno subito concesso tutto. E anche per La Stampa retroscena è questo: così Berlusconi prova a uscire dall'angolo, racconto di Ugo Magri. Il mondo berlusconiano in queste ore si divide tra quanti pensano che l'intervento in Libia sia tutto sbagliato e quanti lo considerano il male minore. Berlusconi, racconta Ugo Magri, ha la netta, inconfessabile sensazione di essere risucchiato in un vortice bellicista su cui il governo non è in grado di esercitare la minima resistenza. E tra l'altro perfino nel coté più intimo del premier, anche se mai lo dichiarerebbero in pubblico, maledicono tutti il giorno del baciamano a Gheddafi. La tesi singolarmente è la stessa avanzata da Vendola: viste le polemiche, il Cavaliere deve farsi perdonare con un atteggiamento inflessibile verso Tripoli, altrimenti lo accuserebbero di essere succube, eccetera eccetera. Questi sono i retroscena, mentre più esplicito è il ministro Calderoli, ministro della Lega, in un'intervista a Repubblica, intervistato da Alberto D'Argenio, dice no a un'operazione neocolonialista, ora vogliamo il voto del Parlamento. Dice Calderoli: nel Consiglio dei Ministri di venerdì avevamo avuto garanzie che prima di una qualsiasi azione ci sarebbe stato un passaggio in Parlamento, non solo nelle commissioni. La Lega dice intervento sì, ma come? In Parlamento avremmo chiesto quei caveat che oggi qualche ministro dice non esserci e avremmo votato dei documenti. Ed ecco qui le accuse ad alcuni ministri che si sono spinti molto più avanti. Si riferisce alla Russa e Frattini, chiede Alberto D'Argenio. A questo non rispondo, dice Calderoli, perché però aggiunge: c'è qualcuno però, che qualcuno affermi che non saremo secondi a nessuno non è motivo di orgoglio. Continuo ad auspicare che il ministro della difesa non diventi un ministro della guerra. E beh, insomma, se non si riferisce alla Russa, pur non facendo nomi, non so a chi si riferisca. E poi ci saranno conseguenze sul governo se non passeranno le due condizioni della Lega? Non rispondo a queste domande, dice Calderoli. Si schiera anche contro la guerra Vendola: l'ONU prevede anche la diplomazia, questo in un'intervista a Repubblica. Tra l'altro c'è una singolare situazione, come racconta anche il Messaggero in un articolo di Mario Aiello, per cui il pacifismo ora, il cosiddetto pacifismo, non è che c'è solo a sinistra, anzi c'è il paradosso, scrive Mario Aiello in un articolo del Messaggero a pagina 7, il paradosso del neopacifismo: da sinistra si è spostato a destra. Ora è la base del Popolo della Libertà neutralista, mentre i Democrat sono graniticamente con la guerra giusta di Obama. Effettivamente il Partito Democratico è ora a favore della guerra, mentre quando era Bush ovviamente è contro la guerra, mentre ora a destra ci sono dei dubbi nella base del PDL, ma anche nella Lega, dei dubbi tra virgolette pacifisti. Questo per quel che riguarda la Libia. Ne parleremo però, ripeto, alle 8.30 compiutamente con il sondaggio "Temete ritorsioni per l'Italia?" Per questo intervento militare. Che dire, ci sono ovviamente tanti articoli invece di notizie italiane. Ovviamente la politica è tutta assorbita, soprattutto per quel che riguarda la vicenda Libia. Ci sono invece articoli di cronaca e quant'altro, ma anche qualcosa di politica, anche l'inevitabile, anche oggi due o tre paginate di Repubblica sulla situazione giudiziaria del Presidente del Consiglio, con un interessante editoriale, o meglio, editoriale commento, il consueto commento che Francesco Piccolo fa sull'Unità a pagina 3. C'è ancora qualcosa sui giornali italiani, su Repubblica in particolare, due pagine sulla vicenda giudiziaria di Berlusconi, tanto che nel suo editoriale di oggi Giuliano Ferrara sul Foglio dice: Repubblica scrive molto e molto bene anche di Tripoli, di quello che succede in Libia. Appena giri pagina entri nel capitolo della faziosità neopuritana nella zona tabloid. E io ho citato proprio Francesco Piccolo, che tiene, lo scrittore, sceneggiatore, intellettuale, che tiene una rubrica tutti i lunedì sull'Unità a pagina 3. Oggi c'è un commento interessante: ci deve pure essere un modo di continuare a informare sulla vicenda delle notti di Arcore, scrive Piccolo, senza per questo continuare a insultare, umiliare, danneggiare per chissà quanto tempo delle ragazze giovani che hanno partecipato a quelle notti e che sono fonte di prova. C'è un limite che si potrebbe non superare nel riportare alcune delle loro conversazioni telefoniche, modi di vivere, aspirazioni, fino alle disinvolture più forti. Nello sfogliare il gran mare di notizie che arriva ogni giorno, si ha ormai netta la sensazione che soltanto una percentuale di esse serva a dimostrare e consolidare le accuse sul comportamento del Presidente del Consiglio. Quella larga percentuale in più, non necessaria, credo sia spinta da un moralismo e un disprezzo che suona più o meno così: ve lo siete voluto. E questo pensiero è già un passaggio definitivo, non sono più considerate vittime del potere, ma complici. E non basta, adesso ci viene raccontato anche quanto si vergognano, quanto siano disperate, dove si sono nascoste, qual è la reazione dei fidanzati, quanto sono terrorizzate da ciò che potrebbe venire fuori. Se fosse più chiaro e condiviso che l'unico colpevole è chi il potere lo esercita, forse ci sarebbe un rispetto maggiore. Qualsiasi cosa abbiano scelto di fare queste giovani donne, per qualsiasi scopo. Insomma, Francesco Piccolo pone questa problematica e lo fa sull'Unità, cioè come dire basta superare il limite per coinvolgere queste ragazze che partecipavano alle feste di Arcore. Come detto, per trovare altre notizie sui giornali, l'apertura del Sole 24 Ore è interessante, non positiva per le imprese italiane. Il pagherò degli enti locali è un controllo che viene fatto, sono dati che vengono tratti dal Ministero dell'Economia, che effettua questo monitoraggio sui flussi di cassa di tutti gli enti territoriali alle imprese. Ebbene, già chi lavora con la pubblica amministrazione lo sa che è un dramma quotidiano quello di incassare poi i soldi per i lavori e le commesse fatte. Ebbene, le imprese, questo dal monitoraggio del Ministero, incassano 7 miliardi in meno delle amministrazioni. Gianni Trovati ne parla a pagina 3, alle imprese 7 miliardi in meno, 3 miliardi in meno dai comuni, 500 milioni dalle province, 3,3 miliardi in meno dalle regioni. Questo è il consuntivo dei pagamenti ricevuto nel 2010 dalle imprese, soprattutto piccole e medie, che lavorano con le pubbliche amministrazioni territoriali, messo a confronto con i livelli dell'anno prima. C'entra la crisi, ma c'entra anche una situazione davvero annosa. Così racconta il Sole 24 Ore. Vediamo se troviamo altre segnalazioni. Beh, questa è interessante, dalla Stampa: la fecondazione assistita diventa peccato. Oggi la Chiesa inserisce tra gli atteggiamenti peccaminosi altri comportamenti, perché c'è un'importante riunione in cui si discute delle nuove forme di peccato. Si occupa da oggi il corso sul foro interno organizzato per 750 sacerdoti nella penitenzieria apostolica, che è il dicastero vaticano che affronta proprio i problemi di coscienza. Tra i nuovi peccati, eccolo qui, la fecondazione assistita. Perché? È un fatto non lecito che potrebbe comportare il congelamento di embrioni che sono persone. E poi, tra gli altri peccati, l'abuso di droghe, inquinare l'ambiente, l'eccessiva ricchezza, il contribuire all'acuirsi della disparità tra ricchi e poveri, il contribuire a creare povertà. Questi sono i nuovi peccati su cui discuterà la Chiesa. Voglio andare a un'altra segnalazione da Repubblica interessante, è questa: non abbassate quel sedile, il galateo per chi viaggia in aereo. Gli americani pragmatici hanno fatto il galateo, le 10 norme da rispettare per chi viaggia in aereo e non disturbare troppo il vicino. Il primo sono i braccioli. In una fila da 3 il passeggero al centro ha diritto a entrambi i braccioli. Quando in centro è un po' più sfigato, insomma, lasciategli almeno i braccioli. La toilette: se dovete andare alla toilette è vietato scavalcare le persone. Se siete magari al finestrino, un tocco sulla spalla anche se dorme, però evitate di scavalcarle. Il sedile reclinabile: educazione vuole che si chieda il permesso e non si reclini il sedile fino ad andare sulle ginocchia di quello dietro. Poi vabbè, sui bagagli, le ginocchia, puntare le ginocchia sul sedile davanti è una roba che mi fa imbestialire quando uno lo fa. Puntare le ginocchia sul sedile davanti è una roba veramente da far atterrare senza paracadute immediatamente quello che sta dietro. Questo per quel che mi riguarda. Comunque il decalogo lo trovate su Repubblica. Non abbassate quel sedile, il galateo per chi viaggia in aereo. Abbiamo un minuto che dedicheremo, nonostante Peter Bescapè ride, alla Gazzetta dello Sport. Perché? Perché è partito il motomondiale. No, scherzo. Ovviamente la Gazzetta dello Sport, il titolo è dedicato a questo sport minore, il calcio. C'è una foto di Pazzini, -2, Inter da sorpasso, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, e -3, Napoli da sogno. Venite, avanti, avvicinatevi, avanti. 2 aprile c'è il derby, la prossima partita, Inter-Milan, -2, Inter da sorpasso. E tra l'altro c'è un Gene Gnocchi oggi molto in forma con il rompipallone, prima pagina della Gazzetta: Gheddafi minaccia l'Italia, rimando mio figlio a giocare in Serie A. Vabbè, ci fermiamo, parliamo di Libia con più serietà nel nostro sondaggio alle 8.30. Votate il sondaggio, la domanda che facciamo è: temete ritorsioni per l'Italia, questo per l'intervento militare in Libia, mentre alle 8.20 per l'intervista, vi ricordo, avremo ospite il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Ora ci fermiamo per il giornale radio.